Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Marò, la procura chiede di applicare le norme antiterrorismo, ma di escludere la pena di morte. Rabbia italiana, inaccettabile, dice il governo. Tra poco ospite il ministro della difesa, Mauro. Napolitano sondo Monti per la guida dell'esecutivo. Già nel luglio 2011, rivela De Benedetti, Forza Italia attacca, sovvertita la volontà popolare. Intanto torna ad intervenire Renzi su Letta, mai chiesto di andare al governo. In Svizzera manifestazioni contro l'esito del referendum che porterà ad un tetto all'afflusso di lavoratori europei, tensioni con Bruxelles. Ne parleremo con un'associazione di frontalieri e con il capo del governo ticinese. Nuova giornata di traffico in tilt per Roma, soprattutto nella zona nord, con molte strade verso il centro chiuse al traffico. Preoccupazione in Liguria e Toscana per il maltempo. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. In apertura dunque la vicenda dei due Marò. Dopo solo 14 minuti di udienza, oggi ennesimo rinvio della Corte Suprema indiana sul caso dei Marò. Se ne riparlerà il 18 febbraio prossimo. L'assenza, dopo ben due anni, dei capi di imputazione nei confronti dei due fucilieri della Marina, La Torre e Girone, fa pugni con lo Stato di diritto e con la correttezza di rapporti tra due democrazie sovrane, ha dichiarato il ministro della Difesa Mario Mauro da Nuova Delhi, dove si è recato proprio per manifestare la sua vicinanza ai due Marò trattenuti in India per l'inchiesta sulla morte di due pescatori del Kerala. Fa bene l'Italia, sottolineato il ministro Mauro, a far sentire la sua voce nel consesso internazionale, perché sia chiaro che si sta consumando un'ingiustizia. Il rinvio dell'udienza al 18 febbraio è stato deciso dopo la presentazione di un'ipotesi d'accusa basata su una versione alleggerita della legge antipirateria antiterrorismo, ovvero senza pena di morte, ma con un'imputazione che prevede fino a 10 anni di carcere, un'ipotesi alla quale l'Italia si oppone fermamente. Il concetto di terrorismo è da rifiutare in toto, ha twittato oggi il presidente del Consiglio Enrico Letta, che annuncia una reazione di Roma e Bruxelles. E mentre l'inviato del governo De Mistura ribadisce la richiesta italiana, in attesa di una soluzione sul processo, che i Marò tornino a casa, a proposito di un eventuale ricorso al Tribunale dell'ONU per il diritto del mare, il ministro degli Esteri Bonino commenta: sono strade eventuali, tutto è sul tappeto, ma forse non è il caso di rendere pubbliche tutte le carte che abbiamo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come si diceva, torneremo a parlare di tutto questo tra poco con il ministro Mauro, che si trova a New Delhi. Veniamo alla politica dominata in questi minuti, o almeno in queste ore, dalle nuove rivelazioni arrivate da De Benedetti in merito a consultazioni fatte da Napolitano con Monti già nel luglio del 2011. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, Simone. Alla vigilia dell'incontro tra il premier Enrico Letta e il capo dello Stato Giorgio Napolitano spunta una grana ben più temibile per il Quirinale della stessa tenuta del governo. Nel libro di Alan Friedman si ricostruisce una vicenda. Il Presidente della Repubblica avrebbe contattato Mario Monti già nell'estate del 2011 in vista di un avvicendamento a Palazzo Chigi con Silvio Berlusconi, avvenuto poi, ricordiamo, nel novembre dello stesso anno. Forza Italia sferra l'attacco, i presidenti di gruppi Camera e Senato, Brunetta e Romani, chiedono spiegazioni al Colle. In una nota congiunta apprendiamo con sgomento che il capo dello Stato si attivò per far cadere il governo Berlusconi già a giugno, quando la bufera dello spread doveva abbattersi ancora sul nostro paese. Tutto questo non può non destare in noi, e in ogni sincero democratico, forti dubbi sul modo di intendere l'altissima funzione del Presidente della Repubblica da parte di Giorgio Napolitano. Attendiamo urgenti chiarimenti. Nel frattempo previsto per domani l'incontro proprio tra Napolitano e Letta per il rilancio dell'azione di governo. Oggi Matteo Renzi ribadisce: mai chiesto di prendere il governo. La mossa sta a Letta di cambiare l'esecutivo. Il segretario PD non farà comunque la lista della spesa né chiederà ministri o sottosegretari. Letta ha preso un impegno di 18 mesi per fare certe cose, dice Renzi. A lui il compito di dire cosa ha funzionato e cosa no. Quindi per il momento questo è tutto per la politica. A te, Simone. Grazie dunque alla nostra Elisabetta Fiorito. Altro tema del quale si sta naturalmente dibattendo in queste ore è il referendum approvato ieri dagli svizzeri col 50,3%, un referendum con quale si intende limitare l'afflusso di lavoratori stranieri nel territorio elvetico, in particolare di lavoratori dell'Unione Europea. Tutto questo sta anche generando uno scontro con Bruxelles. Facciamo il punto con Alessandra Schepisi. Alessandra, eccoci. Sì, buongiorno, è così, la Svizzera chiude di fatto la porta agli immigrati introducendo forti limiti al loro ingresso e con una maggioranza di appena il 50,5% dei voti gli elettori elvetici hanno approvato l'iniziativa della destra conservatrice contro l'immigrazione di massa nel paese su cui erano chiamati a pronunciarsi e verrà dunque limitato non solo il numero di immigrati ma di fatto anche i permessi per migliaia di frontalieri e pendolari italiani e tedeschi. È dura, molto dura la reazione dell'Unione Europea che ha espresso rammarico per l'esito di questo referendum, è un voto che va contro il principio della libera circolazione delle persone, rimette in questione i trattati e l'insieme delle relazioni bilaterali. La Commissione europea esaminerà dunque le implicazioni di questo referendum sul complesso delle relazioni con la Svizzera, l'esito è infatti vincolante e il governo dovrà rinegoziare i trattati, di conseguenza poi sottoporre al Parlamento una proposta di attuazione. Un risultato preoccupante, ha commentato il ministro degli esteri Bonino, sia per quanto riguarda l'Italia ma anche per gli accordi con la UE, tra cui quelli fiscali. Una brutta notizia per il collega francese Laurent Fabius, un voto inaccettabile che avrà conseguenze, il giudizio del ministro degli esteri lussemburghese Hasselborn. Dunque i ministri degli esteri hanno espresso forte preoccupazione, sono tutti questa mattina a Bruxelles dove è in programma il consiglio degli esteri della UE, ma sarà sicuramente al centro del dibattito, mentre dall'Italia tra i commenti controcorrente quello del leader della Lega Matteo Salvini che plaude alla Svizzera e dice proporremo un referendum anche in Italia. A te Simone. Grazie Alessandra Schepisi. Veniamo alla situazione del maltempo che sta continuando a creare problemi a Roma, soprattutto nella zona nord della città che vive ancora i disagi per il diluvio di una settimana fa, ma anche in altre zone d'Italia. Facciamo un punto anche qua con Andrea Viali. Andrea. Sì, è così. Buongiorno Simone, lo dicevi, a causa della pioggia la capitale anche oggi ha vissuto un'altra mattinata difficile dal punto di vista del traffico, con code e rallentamenti in realtà in diverse zone della città, non soltanto a nord, e a complicare la situazione c'è anche il fatto che alcune strade restano ancora chiuse per le frane e le voragini che si sono aperte dopo i temporali che la scorsa settimana hanno mandato in tilt la circolazione stradale nella capitale. Dicevi, però i disagi non riguardano soltanto Roma, perché questa nuova perturbazione sta riguardando da stanotte gran parte del centro-nord e per le prossime ore la Protezione Civile ha diramato una serie di allerta meteo per il Lazio ma anche per la Toscana e la Liguria. In Toscana in particolare a Volterra, dove lo ricordiamo la scorsa settimana è crollato parte delle mura medievali, bene, stanotte ci sono stati altri due smottamenti e disagi per la pioggia e per la neve sono segnalati in queste ore anche in Piemonte. Sempre per la neve è chiuso alla circolazione dei mezzi pesanti, dei tir, il traforo del Monte Bianco. Nel corso della giornata poi è previsto un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto un'estensione di questa perturbazione anche alle regioni del nord-est. La situazione dovrebbe invece iniziare a migliorare a partire da domani dalle regioni tirreniche, ma sempre domani il maltempo porterà piogge anche nel mezzogiorno. Per ora è tutto, Simone. Grazie al nostro Andrea Viali. È trascorso quasi un anno, era l'11 febbraio, dalle storiche dimissioni di Papa Ratzinger, una scelta che ha inciso profondamente sulla storia della Chiesa. Katia Caramelli ne ha parlato con il teologo Vito Mancuso. Ricordo bene la sorpresa di quel giorno, mi telefonarono per chiedere un commento a caldo, io pensavo all'inizio fosse uno scherzo. Poi naturalmente quello che emerse dentro di me fu un senso di sollievo per il fatto che il Papa aveva riconosciuto come non fosse più in grado sostanzialmente di portare avanti un compito così gravoso. Come questa decisione ha cambiato e cambierà la storia della Chiesa? Come è cambiato la Chiesa da un anno a questa parte? Mi sembra che i risultati siano sotto gli occhi di tutti. La fiducia da parte dei fedeli, e non solo dei fedeli, diciamo delle persone, nei confronti del Romano Pontefice è aumentata in modo notevole, se non addirittura notevolissimo. I problemi finalmente si discutono alla luce del sole. Abbiamo un nuovo segretario di Stato in grado di dirigere la curia in modo meno personale. C'è euforia all'interno del mondo ecclesiastico. Lei chiedeva la storia e sulla storia questo significa che probabilmente il compito di Papa non è più qualche cosa da intendersi come necessariamente a vita, qualcosa di sacrale, ma torna a essere un effettivo servizio, un ministero effettivo, laddove una persona che è in grado di esercitarlo lo esercita, e una persona che si rende conto di non essere più in grado per una serie di motivi, appunto, rassegna le dimissioni. Subito dopo le dimissioni si pose questo problema, quello della convivenza tra due papi, quello effettivo e quello emerito. Si disse che il papa effettivo avrebbe risentito dell'influenza di quello emerito, poi i fatti hanno dimostrato il contrario. Guardi, io risposi subito a queste questioni, a quando me le ponevano, credendo nella grandissima onestà intellettuale di Ratzinger. Io non sono, come si è visto dalle cose che ho detto, in alcun modo un ratzingeriano, e tuttavia ho una grande stima per la sua persona, per la sua correttezza, e non avevo dubbi e non ho dubbi che la riservatezza con cui il Papa Emerito ha vissuto le sue dimissioni e continua a vivere giova completamente all'azione di Papa Francesco. Due dati, uno positivo e uno negativo. Quello positivo, appena diffuso dalle agenzie, il superindice economico dell'OCSE continua a segnalare una variazione positiva in termini di slancio dell'attività economica nell'intera eurozona. A 101,1 punti nell'eurozona, in Italia 101,3, mentre in Germania si evidenzia un consolidamento della crescita. Quello negativo è quello che arriva dalla Banca d'Italia, che segnala ancora una volta un calo dei prestiti in dicembre e soprattutto sofferenze in crescita per il sistema bancario. A dicembre il tasso di crescita sui 12 mesi è risultato pari al 24,6%. Le sofferenze hanno superato quota 150 miliardi e sono arrivate a 155 miliardi di euro. Si sta parlando di economia, di infrastrutture e anche di investimenti pubblici a Milano, nella sede di Assolombarda, e sta intervenendo tra l'altro il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. Ci colleghiamo con Stefano Totoro, che si trova là. Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi, esattamente come dici tu, si parla di infrastrutture e trasporti, delle sfide che l'Italia deve affrontare per sviluppare la mobilità in chiave europea. È un ambito su cui i riflettori sono sempre accesi nel nostro paese, ancor di più adesso che la politica infrastrutturale europea sta ridisegnando la rete dei trasporti. Dicevi, il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, ha da poco terminato il suo intervento, ha sottolineato come il nostro paese debba agganciare il treno della crescita realizzando anche le opere infrastrutturali previste. Un settore, ha sottolineato Quindi, dove le inefficienze sono strutturali e i ritardi inaccettabili. Molti i temi affrontati, e non poteva mancare ovviamente quello di all'Italia, il dibattito Malpensa Linate, se fare una scelta, mantenere entrambi gli hub, cosa farà Etihad quando entrerà in Alitalia. Era presente al tavola rotonda anche l'amministratore delegato di Trenitalia Mauro Moretti, che ha invitato le istituzioni a scegliere, considerando il dibattito assurdo. Più cauto il sindaco di Milano Pisapia, che ritiene importanti entrambi gli scali. Insomma, le posizioni su questo, Simone, sono abbastanza note, ma il dibattito sembra ancora senza fine. Per il momento da qui è tutto, a voi. Grazie a Stefano Totoro. Saluto Deborah Bergamini di Forza Italia. Buongiorno e benvenuta ad Effetto Giorno. Buongiorno. Allora, l'abbiamo chiamata per queste rivelazioni pubblicate nel libro in uscita di Friedman oggi al Corriere della Sera, secondo le quali si racconta che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, avesse consultato Mario Monti per un possibile incarico di governo già nel luglio del 2011. Mi sembra che, insomma, la vostra valutazione su quello che è stato raccontato, tra l'altro, da De Benedetti sia molto negativa. Ma sì, peraltro il libro di Friedman, o meglio le anticipazioni che abbiamo visto questa mattina, non fanno che aggiungere ulteriori elementi a una questione che noi abbiamo sollevato da tempo e che abbiamo denunciato da tempo e che il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha denunciato da subito. Adesso si tratterà di vedere, come spesso accade in questo paese, se su queste sconcertanti rivelazioni ulteriori verrà stesa una bella coltre, un bel manto di silenzio, ci sarà l'ennesimo rituale di minimizzazioni che seguiranno, oppure se si coglierà finalmente l'occasione per dire qualche parola di verità e per fare qualche assunzione di responsabilità su quello che accadde nell'estate del 2011. Bergamini, secondo lei è una cosa da dimissioni del Presidente della Repubblica questa? Ma guardi, non amo e non è assolutamente nello stile del mio partito, del movimento che rappresento, incitare o chiedere dimissioni. Quello che però dobbiamo fare è, per una volta per tutte, capire che cosa è successo. Se c'è stato, come appare da tante testimonianze che non sono certo testimonianze di amici del presidente Berlusconi, una tessitura di un'operazione partita con la famosa vendita in massa dei nostri titoli di Stato da parte delle banche tedesche, seguite dalla forte impennata dello spread, famoso spread che regnò nel corso dell'estate. Se tutto questo è stato frutto di una concertazione dunque esterna al nostro paese, con ovviamente azioni anche interne, oppure no. Noi abbiamo elementi che ci dicono di sì, gli elementi si moltiplicano. Io credo che qui ci voglia appunto un'assunzione di responsabilità dei rappresentanti delle istituzioni che in quel momento hanno operato. Commissione d'inchiesta? La commissione d'inchiesta è già stata ovviamente una proposta che è stata messa sul tavolo, ma i tempi delle commissioni d'inchiesta nel nostro paese sono a dir poco biblici. Qui non si tratta di commissione d'inchiesta e basta, questo non è sufficiente. Qui si tratta oggi di dire che cos'è successo. Per una volta dobbiamo avere parole di verità. Se tutto questo fosse accaduto a parti invertite, cioè se Berlusconi si fosse reso da ipotetico Presidente della Repubblica protagonista di un'azione di questo genere, a questo punto ci sarebbero i caschi blu dell'ONU in Italia. Napolitano deve chiarire, in sostanza, questo dite voi. Napolitano deve chiarire. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Marò, la procura chiede di applicare le norme antiterrorismo ma di escludere la pena di morte. Rabbia italiana, inaccettabile, dice il governo. Tra poco ospite il ministro della difesa Mauro. Napolitano sondò Monti per la guida dell'esecutivo già nel luglio del 2011, rivela De Benedetti. Forza Italia attacca, sovvertita la volontà popolare. Bergamini, il presidente, chiarisca. In Svizzera manifestazioni contro l'esito del referendum che porterà ad un tetto all'afflusso di lavoratori europei. Tensioni con Bruxelles. A Sanremo, prime anticipazioni, ci saranno l'attrice e modella francese Letizia Castai, cantautore inglese Cat Stevens, Claudio Baglioni, Raffaella Carrà, Renzo Arbore e Gino Paoli. Giovani italiani, parliamo dei giovani italiani adesso, imprenditori per forza e per scelta. L'Italia è il paese europeo con la più alta autoimprenditorialità, appunto, tra i ragazzi. Sentiamo. Il lavoro dei giovani, in proprio e da soli. A dirlo sono i dati di Eurostat, rielaborati dal Centro Studi Data Giovani per il Sole 24 Ore in edicola oggi, che assegnano all'Italia il record europeo di lavoratori in proprio senza dipendenti. Nel 2013 se ne sono contati oltre 1,3 milioni sotto la soglia dei 40 anni, pari al 15% di tutti gli occupati. Un primato assoluto rispetto alla media dell'area euro, che si ferma alla metà, 7,5%, ma anche nei confronti di Francia e Germania, entrambe al di sotto del 5%. E se la crisi ha inciso sui settori tradizionali come edilizia e manifattura, ci sono segnali positivi da ristorazione, consulenza e servizi informatici. Francesca Barbieri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso torniamo dunque sulla vicenda dei due Marò. Oggi in visita in India c'è il ministro della difesa, Mario Mauro, che è con noi. Una delle strade eventuali, ed è la domanda dalla quale voglio partire, dice il ministro Bonino, è portare la cosa davanti all'ONU, insomma di coinvolgere i livelli internazionali. Vorrei capire che cosa ne pensa. Guardi, intanto l'opera di internazionalizzazione di questo caso continua ed è doverosa da parte italiana, anche perché la contraddizione più grande è appunto quella di considerare da parte dell'accusa indiana l'attività di chi si batte contro la pirateria alla stregua di quella di chi fa il pirata. E questo è un problema per tutta la comunità internazionale e per le regole pratiche del diritto internazionale e per la nostra convivenza civile. In secondo luogo, le carte, vale a dire se utilizzare strumenti come l'arbitrato piuttosto che altre formule, non è necessario che vengano anticipate, perché non dobbiamo in alcun modo precluderci alcuna opzione nell'intento esclusivo di tutelare i nostri fucilieri di marina. Saranno quindi sarà quindi in forma collegiale il governo italiano ad assumersi la responsabilità di quelle contromosse che possano essere un argine a un'esibizione di ingiustizia tanto patente come quella che si è manifestata in questo ultimo periodo. Ministro, è ipotizzabile una qualche forma di ritorsione nei confronti dell'India? Torno a quanto dicevo poc'anzi, il governo italiano ha a disposizione strumenti e iniziative per ogni grado di complicazione di questa vicenda. Anticiparli adesso sarebbe semplicemente gettare fumo negli occhi. Quello che ci preme in questo momento è ribadire con forza la determinazione di questo governo, del nostro Parlamento e del sistema Italia tutto nel suo complesso, nel solo ed esclusivo scopo di portare a casa Salvatore Massimiliano. E quindi anche eventualmente ritorsioni. Non è escluso tutto ciò che può essere utile a risolvere questo caso. L'ultima domanda che le voglio fare, lei è stato all'ambasciata, come ha trovato i fucilieri? I fucilieri sono persone straordinarie, nel senso che nella loro semplicità mantengono una grande forza e una grande libertà d'animo. Ciò non di meno sono in una condizione di restrizione della loro libertà e quindi hanno tutto il diritto di sentire la vicinanza di una nazione, delle forze armate che sono venuto personalmente a testimoniare, ma anche la vicinanza del nostro popolo a loro e alle loro famiglie, perché lo ribadisco, sono innocenti e stanno subendo un'ingiustizia. Grazie Ministro, buona giornata e saluto Paolo Beltraminelli, Presidente del Consiglio di Stato del Ticino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Per chiarire ai nostri ascoltatori, il Consiglio di Stato, sotto questa espressione, non va il Tribunale Amministrativo di secondo grado come da noi, ma va quello che sostanzialmente è il governo del Ticino nello Stato federale svizzero. E quindi siamo con quello che è il capo del governo del Ticino per commentare il referendum di oggi. Innanzitutto vorrei, di ieri, pardon, vorrei capire da lei innanzitutto se ci sono effetti immediati, ma mi pare di no, in realtà si tratta di rinegoziare con Bruxelles. No, di effetti immediati non ce ne saranno, l'iniziativa popolare prevede che ci sono 3 anni di tempo per adeguare le leggi secondo quanto è stato votato ieri. Dal punto di vista tecnico, rinegoziare con Bruxelles è piuttosto complicato da quel che abbiamo capito, dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista politico, Beltraminelli. Certo, ma lei sa che in Svizzera c'è una democrazia diretta e quindi il popolo che è sovrano e bisogna rispettare il volere del popolo. È sicuramente complicato, ma prima di negoziare con Bruxelles bisogna chiarirsi al nostro interno come applicare questa iniziativa. Le iniziative sono molto generiche, cioè parlano di grandi principi, poi bisogna tradurli in legge e bisogna anche vedere quali saranno i settori più colpiti di altri. Quello che è il fulcro comunque della richiesta è quello di prevedere dei limiti quando l'immigrazione assume dei contorni molto molto elevati. D'altronde la Svizzera è una nazione da sempre molto accogliente, pensi che solo il Canton Ticino, visto che parliamo del Canton Ticino, ha una presenza di stranieri del 28% sul territorio, più 60.000 frontalieri, quindi oltre un lavoratore su 2 che lavora in Ticino proviene dall'Italia. Quindi il referendum dice bisogna mettere un'asticella, dove sarà posta questa asticella è altra questione che verrà dibattuta appunto nei prossimi 3 anni, cioè può darsi anche che questa asticella sia piuttosto in alto. Ma sa, l'asticella dovrebbe essere posta in funzione al territorio, quello che il territorio può permettersi e soprattutto vi saranno diversità nei vari settori. Penso che chiunque possa capire che quando vi è una disponibilità di manodopera sul proprio territorio che viene lasciata a casa o non viene impiegata per favorire altri, questo dà dei timori e delle preoccupazioni per il futuro. Quindi un dumping salariale vero e proprio in questi anni c'è stato sostanzialmente? C'è stato in parte un dumping salariale soprattutto in professioni legate alla finanza, dove si è notato un effetto importante, ma soprattutto vi è stato anche una tendenza alla sostituzione che sta aumentando di manodopera, addirittura vecchi frontalieri sono stati sostituiti da noi frontalieri. In più, specialmente nel Canton Ticino, si aggiunge questa presenza di liberi lavoratori indipendenti che vengono dall'Italia, lavoratori distaccati, con la possibilità di lavorare fino a 90 giorni praticamente senza nient'altro che avvisare semplicemente che vengono a lavorare. Questo è un elemento in più che ha fatto riflettere il popolo svizzero. Ultima domanda che le voglio fare riguarda il fatto che il presidente lombardo Maroni ha detto: io ho un buon rapporto con Beltraminelli, mi ci sentirò e lo incontrerò al più presto proprio per discutere di questi temi. Vi siete già sentiti? Non ci siamo ancora sentiti, ma molto volentieri lo sentirei, anche perché le tensioni che ci sono sociali da voi ci sono anche da noi, ed è peccato che due paesi confinanti che hanno tanta cultura in comune non riescano a trovare delle soluzioni. Ma io sono sempre ottimista, la politica è l'arte del possibile. Prendiamo atto di questa voto svizzero, che non è un voto xenofobo o anti-stranieri, ma è proprio un territorio che reagisce dicendo: c'è un limite anche al territorio, cerchiamo di trovare un nuovo equilibrio. Infine le chiedo di mandare un messaggio ai frontalieri, ce ne sono anche tanti in ascolto, insomma, se si sente di tranquillizzarli oppure no. Ma certo, il frontaliere che oggi lavora in Ticino non deve temere. Io dico sempre: il frontaliere è fondamentale per la nostra economia. Io mi occupo nei miei compiti di sanità, ho fatto l'ingegnere per tanti anni, in tanti settori senza i frontalieri non abbiamo nessuna possibilità, e poi lavorano anche molto bene. Però credo di dire a loro che fossero loro nella nostra stessa situazione probabilmente avrebbero reagito alla stessa maniera. Quindi un po' di pazienza, troviamo delle soluzioni, ma lavoriamo insieme. Grazie Beltraminelli, Paolo Beltraminelli, Presidente del Consiglio di Stato del Ticino. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata anche a lei e a tutti i radioascoltatori. Arrivederci. E saluto la nostra Marta Cagnola, inviata a Sanremo. Marta, buongiorno. Simone, quindi dalla Svizzera alla Liguria. Alla Liguria. Allora, guarda, io leggo dalle agenzie la lista. Allora, Cat Stevens, Claudio Baglioni, sì. Raffaella Carrà, Renzo Arbore, Gino Paoli, Franca Valeri. È una riunione di vecchie glorie o è il festival di quest'anno? No, in realtà ci sono due aspetti. Uno, il fatto che ci sarà un omaggio ai 60 anni della RAI, per questo alcune vecchie glorie. L'altro invece che ci sarà una serata in cui verrà fatto un ponte ideale finalmente per la prima volta tra il Festival di Sanremo e il Club Tenco, che è la manifestazione nata a Sanremo tanti anni fa quasi come risarcimento alla mancata attenzione alla canzone d'autore. Per il resto ci saranno anche altri ospiti come Rufus Wainwright, come Damien Rice, come Paolo Nutini e altre sorprese, però che non hanno voluto confermare perché, insomma, come sai, le trattative vanno avanti fino all'ultimo anche con gli ospiti. Si parte quando, Marta? Ci ricordi le date? Si parte martedì prossimo e quindi si andrà avanti fino a sabato prossimo. Si parte il 18. Si parte il 18. Bene, quindi trattative ancora in corso, ma qualche indiscrezione su altri ospiti in ballo possibili? Allora, si parla di un grande nome del calcio, ma ancora non hanno voluto anticipare chi sarà il grande nome del calcio. Si aspetta qualcosa magari anche dalle Olimpiadi e quindi stiamo cercando di capire se qualche medagliato o neomedagliato possa arrivare anche a Sanremo, e le aspettative sono alte. Per il resto, ieri è stato bruciato, insomma, la notizia dell'arrivo di Pisso, che farà una striscia prima di ogni puntata del festival, una striscia filmata, e poi la notizia, quella più attesa, è sempre quella dei costi. Costerà 18 milioni il festival, di cui 7 che vanno al comune di Sanremo per la convenzione, 11 quelli per la reale produzione, già coperti con la vendita della pubblicità tabellare e degli spazi degli sponsor. Quindi il festival è a costo zero e si spera anche di guadagnarci qualcosa quest'anno. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E ora parliamo della visita del presidente Hollande negli Stati Uniti, una visita che ha creato più di qualche problema al cerimoniale. Bruciati segnaposto gli inviti con il nome di Valérie, cancellata in tutta fretta la visita alle scuole delle First Ladies, e a poche ore dalla cena Obama ancora non sa chi far sedere a fianco a Hollande. La prima visita di Stato di un presidente francese negli Stati Uniti dal 1996 inizia con non pochi grattacapi per lo staff della Casa Bianca. Gli Obama, Barack e Michelle avevano preparato tutto per benino, cena di gala, danze comprese, ma ora, dopo la rottura improvvisa fra François Hollande e Valérie a causa della scappatella di lui con l'attrice Julie Gayet, il protocollo è stato rivoluzionato. Di sicuro bisognerà mettere una toppa al programma delle danze, che prevedevano originariamente un primo giro di valzer con i coniugi Obama e gli Hollande a seguire. I dettagli per porre rimedio sono però riservatissimi, al New York Times ci scherzano su. Sembra di stare in Corea del Nord, dicono. Di sicuro non ci sarà la nuova fiamma di Hollande, la giovane Gayet. Pare che non se ne sia rammaricata troppo Michelle, che non ha ancora dimenticato gli sguardi e i sorrisini del marito alla bionda prima ministra danese ai funerali di Mandela. Allora lo aveva fatto spostare, ora non ce ne sarà più bisogno. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo all'inchiesta di Daniele Biacchessi, come tutti i lunedì, che oggi ci riporta sulla politica. Voto anticipato. C'è chi lo afferma in modo esplicito da tempo, chi se ne sta sempre più convincendo, chi invece lo intende utilizzare come arma di ricatto all'interno della sua coalizione. Comunque vada, in Italia cresce in questi mesi una forza politica trasversale, ormai maggioritaria, quantificabile a livello di sondaggi intorno al 70% del corpo elettorale. Si chiama Partito del Voto Anticipato. E ciò accade indipendentemente dal dibattito sempre più tecnico sulla nuova legge elettorale, sull'accordo fragile tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, a cui gli italiani sembrano essere ampiamente disinteressati. La situazione è questa. I sondaggi di questi giorni dicono con la massima precisione che, con o senza una nuova legge elettorale, dalle urne uscirebbe un paese diviso sostanzialmente in tre grandi forze. Il Partito Democratico di Matteo Renzi in crescita, il Movimento 5 Stelle stabile, Forza Italia in flessione. Il 75% degli elettori deciderebbe così e nessuno dei partiti e movimenti più forti otterrebbe una maggioranza piena. Ciò nonostante, in molti guardano ormai alle elezioni anticipate. Chi vuole tornare alle urne come la Lega per riconciliare il suo elettorato ormai dimezzato con la nuova leadership di Matteo Salvini. Sel di Nichi Vendola intende ridisegnare a sinistra il rapporto con il Partito Democratico. La minoranza del PD pensa di trasformare il voto in un referendum pro contro Renzi. E lo stesso Renzi non vorrebbe replicare con Enrico Letta la mossa di Massimo D'Alema del 1998, quando l'ex leader del PDS prese il posto di Romano Prodi alla guida del paese senza aver avuto un consenso elettorale, una mossa che proprio oggi Prodi liquida come un suicidio politico. Il Movimento 5 Stelle ovviamente è interessato a sfruttare l'eventuale tracollo dell'accordo Renzi-Berlusconi a proprio vantaggio elettorale e tenta il colpo per diventare la prima forza politica in Italia. Le probabilità sono dunque alte. È un voto anticipato sancirebbe certamente la sconfitta di un intero progetto politico e l'affermazione invece di una nuova leadership. Una notizia appena battuta dalle agenzie: il presidente dell'Automobile Club tedesca ADAC, Peter Mayer, si è dimesso. La vicenda è interessante, un po' passata sotto traccia in queste settimane. In Italia che cosa è successo? È successo che l'ADAC, che è il più grande automobile club d'Europa e ha oltre 18 milioni di iscritti, aveva sostanzialmente falsificato i dati del concorso sull'auto preferita dell'anno, che aveva visto premiata una Volkswagen, la Golf 7. È stato manipolato il numero assoluto dei voti raccolti, era stato manipolato. I voti ottenuti dalla Golf erano stati 3.409 contro i 34.299 pubblicati ufficialmente, cioè sostanzialmente decuplicati. E quindi, notizia di poco fa, il presidente dell'Automobile Club tedesco alla fine si è dimesso. Allora, altre notizie che vi dobbiamo dare. Innanzitutto le dichiarazioni del ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato, appena battuta dalle agenzie, riguardano la vicenda Electrolux. Zanonato ha riferito in aula alla Camera sul caso, ha detto: un'azienda così importante non deve chiudere nel nostro paese neppure uno dei centri di produzione, e conferma la volontà del governo di non consentire il trasferimento in altri paesi come la Polonia. Ci colleghiamo a questo, la notizia invece data dall'Istat questa mattina, e sono i dati proprio sulla produzione industriale. C'è la media del 2013, nella media del 2013 la produzione è crollata del 3% rispetto all'anno precedente, a dicembre la produzione è calata dello 0,7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, quindi un 2013 che si chiude come probabilmente era previsto, ampiamente ampiamente in negativo. Infine, ultima notizia che riguarda la vicenda del referendum della Svizzera, perché stanno continuando ad arrivare dichiarazioni sia dal livello europeo che dal livello dei singoli stati. Ebbene, c'è quella che arriva da Berlino, dal governo tedesco. Il risultato del referendum svizzero solleva notevoli problemi. Secondo Berlino, il governo tedesco rispetta l'esito del referendum, ha detto oggi il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, ma dal nostro punto di vista, appunto, solleva notevoli problemi. E poi ci sono, naturalmente, c'è l'applauso invece che arriva dalla Francia, dalla leader del Fronte Nazionale, Marine Le Pen, che ha lanciato un appello ai francesi perché seguano l'esempio della Svizzera dopo, appunto, la vittoria del sì al referendum, che è stato forse impropriamente definito anti-immigrazione. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Però la procura chiede di applicare le norme antiterrorismo ma di escludere la pena di morte. Rabbia italiana, inaccettabile, dice il governo. Napolitano sondò Monti per la guida dell'esecutivo già nel luglio del 2011, rivela De Benedetti. Forza Italia attacca, sovvertita la volontà popolare. Problemi per il maltempo, come avete sentito anche in strade in diretta. A Roma, traffico in tilt, un albero è crollato su un'auto a Fiumicino e due anziani sono stati salvati, invece nel Grossetano erano rimasti in un sottopassaggio con la loro auto. In Svizzera manifestazioni contro l'esito del referendum che porterà ad un tetto all'afflusso dei lavoratori europei, tensioni con Bruxelles. Zanonato parla ancora su Electrolux e dice gli stabilimenti rimangano in Italia. È il momento di Mario Platero e di America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. Who do I have for Tea Garden Drive in Golden Gate Park? E quello che avete sentito è il tipico rumore, questa voce un po' gracchiante dell'operatore di smistamento. Questo era il vecchio modo di fare la distribuzione di auto, di vetture, di taxi. Adesso è tutto elettronico. Perché vi parlo di operatori di smistamento, di taxi? Perché c'è un problema tra tassisti, associazione di tassisti e Uber, ed è un servizio elettronico che fa che cosa? Ci si abbona a questo servizio via internet con un'applicazione sullo smartphone, dando la propria carta di credito, e il computer fa tutto, nel senso che attraverso il sistema di monitoraggio di GPS identifica la tua posizione, identifica la posizione di macchine, di auto, di taxi che possono essere vicini o lontani, e immediatamente mette le due persone in contatto e quindi conferma sempre via smartphone che la chiamata è stata ricevuta e che nel giro di un minuto, due minuti, tre minuti, quello che è, vi sarà una macchina che arriva per prenderti e portarti all'altra destinazione. Ecco, il sistema è molto comodo perché consente di chiamare all'ultimo momento, in genere c'è una rapidità di reazione piuttosto immediata e il costo viene addebitato alla carta di credito, non c'è bisogno di pagare il conducente, il tassista o qualunque sia la vettura che viene a prendere. In Italia per ora c'è soltanto la cosiddetta NCC, la macchina a noleggio col il conducente. E ci sono state polemiche perché i tassisti hanno detto ma questi ci tolgono il lavoro, non funziona, noi non possiamo fare parte di questo servizio, almeno per ora non siamo inclusi. E ci sono stati, devo dire, degli episodi che mi hanno piuttosto colpito, perché sono stati degli episodi di violenza in cui alcuni di questi autisti sono stati attaccati. E questo ci porta a un problema che secondo me in Italia dobbiamo risolvere, cioè quello delle carte di credito, del pagamento a credito dei tassi o del trasporto, cosa che in America è assolutamente normale. Ci sono degli schermi dove il passeggero paga direttamente per conto suo, mette la carta di credito e la riceve. In Italia, io credo che sia meglio cominciare a riflettere su queste cose e trovare delle soluzioni, dei compromessi che funzionino per tutti senza bisogno di dover passare alle sprangate. Detto questo, Uber ha anche dei problemi non da poco, perché spesso non comunica il prezzo. Oppure raddoppia il prezzo all'improvviso nel momento in cui ci sono ore di punta. Su questo voglio aprire un piccolo dibattito tra tassisti italiani e rappresentanti di Uber. Cominciamo con Uber, poi diamo la parola all'associazione dei tassisti. Ho con me ai microfoni di America 24 Benedetta Arese Lucini, che è la responsabile regionale di Uber Italia. Buongiorno Benedetta. Buongiorno. Beh, insomma, io posso capire il tassista che già poco lavoro, la benzina costa carissima, ci sono delle tasse minime che devono pagare, in più interviene questa concorrenza via internet. Possiamo includere anche loro? Sì, noi abbiamo Uber per i taxi in molte città in America e anche in alcune città all'estero. E dunque perché in Italia non lo avete ancora fatto? Perché siete appena arrivati? Perché Italia siamo un mercato molto giovane e di solito introduciamo la nostra applicazione con un servizio un pochino più premium. Abbiamo considerato l'opportunità di questa soluzione anche per i taxi, ma in questo momento non siamo ancora arrivati a un accordo, anche perché comunque noi abbiamo tutti i pagamenti tramite carta di credito. In teoria, se avete solo le macchine nere, non dovrebbe esserci questa concorrenza, perché voi fate pagare comunque un 20% in più, se non sbaglio, no? Esattamente. Il motivo per cui aggiungiamo questo tipo di servizio al taxi già esistente è che in molte città in giro per il mondo, anche se ci sono tanti taxi, c'è comunque un bisogno. E infatti noi anche a Milano lavoriamo molto bene durante le settimane della moda, la notte, in momenti in cui comunque il numero di taxi non bastano per la domanda. Bene, allora abbiamo sentito che cosa ha fatto Uber in America, cosa vuol fare, cosa potrebbe fare in Italia, e dunque vediamo di avere una risposta, di aprire un dialogo, quindi il ponte americano tra New York e l'Italia. A questo punto lo andiamo a gettare con Loreno Bittadelli, che è il presidente nazionale dell'Associazione dei Tassisti, della URI Taxi. Buongiorno Bittadelli. Buongiorno a tutti. Ecco, allora Bittadelli, dunque, intanto c'è una strana assonanza, no? Uber, URI, cosa ne dice? È un buon segno per questo nuovo anno che comincia? In linea di massima non siamo contrari o avversi a nessun progetto o imprenditore che vuole venire a investire nel nostro paese. Il punto di discordia sta semplicemente nel fatto che chiunque vuole venire da noi a farci anche concorrenza, però questa concorrenza deve avvenire nel rispetto delle regole. Noi in Italia, per quello che riguarda il trasporto pubblico non di linea, abbiamo una legge quadro nazionale, che è la numero 21 del 15 gennaio 92, che distingue in maniera ben precisa e netta i due servizi, taxi e noleggio con conducente. Ecco, però uno dei punti di forza di Uber è quello di avere le macchine che si muovono, perché sennò il servizio non funziona. Quindi lei sta dicendo: non fatelo. Io sto dicendo che Uber è illegittimo con le macchine che si muovono, per le normative che stanno in Italia, perché prevedono che il servizio di noleggio con conducente deve stazionare presso la rimessa, deve attendere che un cliente lo chiama, pattuisce un prezzo con il cliente a seconda del tipo di veicolo che vuole, e poi se diciamo il cliente accetta è come se avesse firmato un contratto. Tra l'altro mi sembra che voi abbiate già anche una cosa simile, no? Di locazione via noi internet. Noi abbiamo delle app, l'abbiamo prima che nascesse Uber, già abbiamo la nostra app, insomma, da un paio d'anni che stiamo migliorando e implementando, tra l'altro proprio in questi giorni. Quindi non è che dobbiamo in un certo senso imparare qualcosa da qualcuno. Però c'è una cosa, io in effetti spesso mi capita di essere in Italia e devo usare per questioni di lavoro la carta di credito quando prendo il taxi, e molti dei suoi colleghi, per esempio arrivando all'aeroporto a Malpensa, devo fare poi una piccola trafila, il primo non lo prende, il secondo non lo prende, e poi alla fine il quarto, il quinto dice va bene, sì, ce l'ho, e la prende. E noi avremo nel 2015 milioni di turisti che arrivano. Ecco, no, perché rifiutano spesso la carta di credito? Sono delle commissioni che i tassisti devono pagare, parliamo del 3,5%, 4% per ogni transazione. Quindi lei, come sa, in questi periodi in modo particolare di crisi, anche un centesimo per noi è importante. E di fatto il tassista preferisce soldi contanti. Ciò non toglie comunque che molte strutture di cooperative, come ripeto il 3570, sono organizzate e stanno addirittura, noi stiamo installando dei POS con tecnologia NFC contactless di ultima generazione, che consente il pagamento anche attraverso gli smartphone oppure le carte, quelle che contatte, semplice avvicinamento svolgono la transazione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Passiamo alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di taxi. Chi di voi è arrivato a New York avrà sicuramente visto i tradizionali yellow cab, i taxi gialli. A loro voglio dedicare la canzone di oggi, e dunque vi propongo questo classico di Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. Farmer, put away the DDT now. Feed me spots on apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Grazie anche a Mario Platero, è tutto per Effetto Giorno. Gli altri ringraziamenti: Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggin in assistenza e in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Se volete c'è la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, oppure mi potete scrivere su Twitter, mi trovate là, Simone Spezia. Ci ritroviamo con la trasmissione con Effetto Giorno domani alle 13 e tra un attimo invece col giornale radio.